Gabbiano. Il Gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Lo sapete, ve l'ho detto più volte, uno dei nostri obiettivi è quello di raccontare lo sport, raccontare il calcio, in modo che intanto che anche le donne possano apprezzare i nostri racconti, ma in modo da evidenziare gli aspetti umani, gli aspetti poetici, gli aspetti emozionali. Ci interessa più quello che magari un dribbling, un gol, un cross azzeccato. E spesso le grandi storie nascono più dal cuore che dalla testa, nascono da persone, da personaggi di grande spessore umano, e molti di questi, lo sapete, sono quelli che hanno indossato la stessa maglia per tutta la carriera, le bandiere, i Totti, i Maldini, gli Zanetti. Ma in realtà ci sono anche persone, soprattutto tra gli allenatori, perché sapete, l'allenatore è quasi impossibile che stia sempre nella stessa squadra, gli allenatori che sono sempre stati uguali, hanno avuto una cifra stilistica uguale in ogni panchina sulla quale si sono seduti. Ecco, oggi parliamo di un uomo che si è comportato con i suoi giocatori come un padre che sorride quando c'è da sorridere, ma che sa arrabbiarsi quando è necessario, un uomo sanguigno, uno che non ha mai avuto paura di trattenere le sue emozioni. Oggi parliamo di Carlo Mazzone. Da queste note, insomma, avete capito che la nostra storia parte da Roma, la città, la romanità, i colori giallorossi saranno predominanti oggi, perché a Roma il 19 marzo 1937 nasce Carlo Mazzone, Carletto come lo chiamano tutti. Lui da ragazzino se la cava bene col pallone, entra nelle giovanili della Roma, nasce questo amore tra questo ragazzino e la sua squadra che nel 59 lo fa esordire in Serie A. Però non è un fuori classe, è un buon giocatore, rimane a Roma un campionato, poi comincia a spostarsi, prima va alla SPAL, poi al Siena in Serie C e poi approda all'Ascoli, che in quegli anni si chiama Del Duca Ascoli. Rimane ad Ascoli 9 anni fino al 69, quando succede una cosa, quelle cose che un giocatore di calcio spera non accadano mai. Ed in un Ascoli San Benedettese io ho avuto una frattura di tibia, non portò il parastinco in contrasto, e lì fu la mia sfortuna fortunata, perché Costantino Rozzi mi disse che non ti preoccupare, che saremo sempre insieme, e mi dette innanzitutto il settore giovanile di partenza. Sono gli anni in cui ci sono presidenti come Costantino Rozzi, è un uomo semplice, era un mito in quegli anni. Costantino Rozzi era innamorato della sua squadra, così come Ancone Tani era il patron del Pisa, Sibilia dell'Avellino, ma ce n'erano molti, ma anche voglio dire Fraizzoli all'Inter, anche nelle grandi squadre c'erano dei presidenti che in qualche modo erano dei padri, erano quasi delle squadre a gestione familiare, ben lontane anni luce dalle multinazionali di oggi, gestite magari da arabi o da cinesi. Un presidente come Rozzi era uno che veniva incontro alle esigenze degli altri, come un padre con i propri figli, e lui fa così con Carlo Mazzone. Cioè, Carlo Mazzone si infortuna e lui sente di dovergli qualcosa, lo fa diventare allenatore nelle giovanili dell'Ascoli. Il Del Duca Ascoli diventa Ascoli Calcio e Carlo Mazzone passa a allenare la prima squadra. Due anni di rodaggio, poi l'Ascoli conquista un grande traguardo, dalla C arriva in Serie B. Per Carlo Mazzone è la prima grande soddisfazione della sua carriera da allenatore. Il sodalizio è molto saldo, il sodalizio con Rozzi, e così si rimane tutti assieme fino al conseguimento di un obiettivo che sembrava impensabile. Due anni dopo, a giugno del 1974, l'Ascoli arriva secondo in Serie B e conquista una storica promozione in Serie A, la prima volta che accade. Per la squadra marchigiana è una festa, per tutta la città, per le Marche intere, a cominciare dal suo presidentissimo Costantino Rozzi. Teorico dovrebbe essere impossibile per una città di 50.000 abitanti, invece per noi no, noi faremo la Serie A e la resterà, ricorderà i figli dei figli nostri, perché noi dovremmo stare almeno 50 anni. Eh sì, Rossi arringa la folla, perché è uno degli artefici di questo miracolo, ma il merito principale di questa doppia promozione è ovviamente suo e di Carlo Mazzone. Un colpo d'ala, Mazzone riesce a instaurare con i suoi giocatori un rapporto di affetto che va al di là del rapporto che c'è tra allenatore e giocatore. Per lui lo chiamano il Sor Carletto ormai tutti, la squadra è una famiglia, lui sa di avere a che fare con ragazzi giovani che magari hanno 18-20 anni e che possono avere i problemi tipici dei ragazzi di quell'età. Insomma, lui comincia a comportarsi anche da psicologo, parla con loro, con i genitori, dispensa consigli, crea uno spirito di squadra che permetterà all'Ascoli di rimanere in Serie A anche nel campionato 74-75. Però Mazzone è un buon allenatore, altre squadre gli hanno messo gli occhi addosso. Alla fine lui riceve un'offerta importante, la panchina viola della Fiorentina, Rossi gli dà il permesso di volare e lui rimane a Firenze 3 stagioni e nel campionato 76-77 conquista il terzo posto dietro a Juve e Torino. Poi bisogna fare le valigie, tutte tappe che Mazzone compie con grande professionalità ma con un sogno nel cuore, quello di potersi sedere nella squadra di cui è tifoso fin da bambino, la Roma. Nel 1978 Carlo Mazzone è sulla panchina del neopromosso Catanzaro, dove allena Massimo Palanca, già nostro protagonista, e un certo Claudio Ranieri. Il mestiere dell'allenatore è quello, l'allenatore è un nomade, è il più nomade di tutti, deve spostarsi da una città all'altra, c'è un lungo periodo di viaggi, di città diverse, di panchini diverse. Si torna là dove tutto aveva avuto inizio, a Ascoli. Mazzone rimane 4 stagioni e c'entra 4 volte l'obiettivo della permanenza in Serie A, salva l'Ascoli 4 volte, poi va a Bologna, Lecce, Pescara, 18 anni di spostamenti, di buoni risultati. Certo, non parliamo di scudetti, ma sono campionati durissimi, l'importante è non retrocedere, stagioni ottime in cui Mazzone dimostra di essere un grande allenatore, non solo per lo stile di gioco ma anche e soprattutto per il clima che crea all'interno dello spogliatoio. L'immagine dell'allenatore è un'immagine importante nel dialogare, nel prendere visione di questi giocatori che hanno delle famiglie e che l'allenatore ha delle responsabilità importanti. Io dicevo ai miei collaboratori, fammi parlare un po' dal papà di guarda, sono Mazzone, mi scusi, sono l'allenatore, che succede? Lo faccio come se fossi un padre insieme a voi. C'era questo grande rapporto, questo feeling, per cui più che l'allenatore sono diventato un genitore. Un genitore che durante la partita si arrabbia, inveisce, gesticola, smanaccia, insomma è una testa calda quando è in panchina. Intanto nel 91 lui è arrivato a Cagliari, sta lavorando con un gruppo di giocatori molto importanti, Jelpo in porta e fuori c'è gente come Pancaro, Matteoli, Oliveira. Mazzone prende in mano la squadra sarda, la porta al 6° posto del campionato conquistando la Coppa UEFA. Insomma, a parte il Cagliari di Scopigno e di Gigi Riva, a Cagliari raramente hanno vissuto situazioni del genere. L'anno successivo il Cagliari arriverà alle semifinali di Coppa UEFA, ma non con Mazzone in panchina, e già perché dopo quella grande stagione al Cagliari arriva finalmente la telefonata che stai aspettando da una vita, il sogno che Mazzone sta inseguendo da 18 anni. Arriva una telefonata dal presidente Sensi, neo presidente della Roma, che chiama Mazzone come allenatore. Io sono molto legato alla famiglia Sensi, è un altro presidente che gli devo tanto. Sensi mi ha dato la possibilità di allenare la Roma, la Roma. Solamente per come lo dico, ma adesso mi può capire Ranieri, che un giorno a Ranieri gli disse una frase importante: non andare in giro a dire che sei allenatore finché non hai salito i gradini dell'Olimpico. Giovanotto, adesso li hai saliti, attenzione, non te inciampà. È comico e un po' perfido, eh? Questa è un'intervista che aveva rilasciato Mazzone nel 2011 e vedete come Mazzone si rivolge a Ranieri, che infatti dovrà rassegnare le dimissioni. Da, da, da, da, da, da. A Roma Mazzone rimane 3 anni, un 7° posto e 2 quinti posti. È la Roma di Giannini, di Carboni, di Balbo e Fonseca. Ma sono 3 anni fondamentali perché dal 93 al 96 esplode la stella della Roma, Francesco Totti. Mazzone lo inserisce lentamente nei meccanismi della squadra, lo protegge dalle critiche, calma l'euforia che si crea a Roma per le prime giocate positive. Lui ha capito di avere per le mani un vero campione, vuole evitare che si bruci con gli entusiasmi facili degli esordi. Comincia a fare quello che faceva in provincia, parla con i genitori, controlla la vita privata, fa da secondo padre a Totti e lo fa diventare un campione. Lui per me è stato un padre, un secondo padre, perché ho avuto la fortuna di trovarlo al momento giusto della mia carriera. Mi ha cresciuto sia in campo ma soprattutto fuori, perché conosceva Roma, conosceva l'ambiente di Roma e è riuscito a gestirmi da grande, oltre da grande allenatore, ma da grande persona, quello che è sempre stato. Perciò lo ringrazierò per tutta la vita, perché avendolo avuto al momento giusto mi ha fatto crescere tantissimo. A Roma Mazzone si prende anche la soddisfazione di vincere 3-0 un derby con la Lazio e in quell'occasione, campionato 94-95, Mazzone corre sotto la curva romanista, è un gesto inusuale per un allenatore, rende il sor Carletto un uomo del popolo che se ne frega dell'etichetta, che manifesta tutto il suo amore verso la squadra che porta nel cuore e mostra il suo rispetto verso i suoi tifosi. Ma guardate Mazzone, accenna addirittura la corsetta per la seconda volta, intanto anche Giannini portato in trionfo per la seconda volta nella sua pluridecennale carriera di allenatore. Mazzone è andato a salutare i tifosi, lo ha fatto in precedenza solo in occasione di una salvezza conquistata dall'Ascoli, dal suo Ascoli, nei confronti del Cagliari. Ma questa non sarà l'ultima volta che i tifosi vedranno correre verso di loro Carlo Mazzone. In realtà l'altra corsa la farà non coi suoi tifosi ma con quelli avversari, e non sarà neanche una corsa troppo pacifica, ma da uno come Mazzone ci si può aspettare di tutto. Il falco e il gabbiano. Stiamo raccontando la storia di Carletto Mazzone, un allenatore genuino dal carattere rude che si prende cura dei ragazzi, che lui allena come un padre, come quando si allenano le squadrette all'oratorio, i ragazzini vanno educati alla vita e solo in un secondo momento al calcio. Carlo Mazzone, romano de Roma, come dice lui, ha allenato tante squadre in giro per l'Italia, ha lasciato buoni ricordi quasi dappertutto, sicuramente a Ascoli, a Firenze, a Cagliari. Poi ha approdato alla sua squadra del cuore, quella Roma, in cui ha avuto tra l'altro l'onore e l'onere di inserire un giovanissimo Francesco Totti all'inizio della sua grande carriera. Dopo la parentesi romana che dura 3 anni, torna a Cagliari con un campionato già compromesso, non riesce a salvare la squadra dalla retrocessione, va a Napoli e qui fa una cosa che solo uno come lui può fare. 4 partite, 4 sconfitte, Mazzone se ne va senza pretendere un solo centesimo, in polemica con la dirigenza. Poi nel 1998 si va a Bologna. Fuori gioco, il gioco è fermo e possiamo immaginare Mazzone, restiamo comunque con le immagini in diretta, Mangone. Non ve lo potete immaginare Mazzone invece. Ingesson, dicevi Fabrizio. Che non lo potete immaginare Mazzone, soltanto da guardare, perché è una, cambia espressione in continuazione, sembra davvero un vecchio satanasso della panchina, chissà quali sono le emozioni che lo attraversano in questo momento, di certo è uno spettacolo unico anche se triste in questo momento Carlo. La corsa del Bologna in Coppa UEFA si ferma solo in semifinale per opera appunto del Marsiglia, insomma una squadra non di prima fascia che quell'anno sfiora l'impresa, l'artefice di questa cavalcata che parte addirittura dalla Coppa Intertoto, quindi parte da luglio, è Carlo Mazzone. Quell'anno col Bologna riuscirà anche a raggiungere le semifinali di Coppa Italia. Poi si va a Perugia e lì lui riesce a stabilire un record particolare, essere l'unico allenatore assunto da Gaucci che conserva il suo posto fino alla fine del campionato senza essere allontanato da quel presidente quantomeno folcloristico. Poi arriviamo al 2000, Mazzone approda all'ennesima squadra di provincia, il Brescia del presidente Corioni. Il Brescia sta per disputare il suo 17° campionato in Serie A, ci sono buoni giocatori, i gemelli filippini, c'è Dario Hübner e c'è un giovanissimo Andrea Pirlo che aveva fallito, insomma non era riuscito a integrarsi nell'Inter, viene parcheggiato prima a Reggio Calabria, poi a Brescia, poi approderà però al Milan e alla Juventus, ma questa è un'altra storia. Mazzone ha un chiodo fisso, lui quando era a Bologna non è riuscito per poco a allenare un campione che sta vivendo gli ultimi anni della sua carriera calcistica fenomenale, averlo a Brescia sarebbe tantissimo. Io ho letto sul giornale che la regina si interessava a Roberto Baggio. Io telefono e parlo con ragazzi. Senti una cosa, ma non fa più il giocatore te? Veresti tu a Brescia? Io lo sentii ottimista, sentì euforico. Gli ho detto, senti, adesso questa, siccome è una telefonata mia personale, adesso devo far presente tutto questo al mio presidente. Roberto, non ti preoccupare, fra 10 minuti io ti ritiro. Vado dal presidente Corioni, dico, presidente, così, così, così. Lui si è infervorato. E dopo un quarto d'ora, 20 minuti, telefonammo a Roberto Baggio e si fissò un incontro. E si fece il contratto. Eh sì, a Brescia il miracolo. Arriva il divin Codino, arriva Roberto Baggio che impreziosisce quella squadra di provincia organizzata arte da Mazzone e regala a Mazzone e a tutta una città altre soddisfazioni. A Brescia l'inserimento di Roberto Baggio fa sì che la maglia numero 10, la mitica prestigiosa maglia numero 10, venga tolta a Pirlo per metterla sulle spalle di Roberto Baggio. E qui Mazzone fa un grande miracolo, direi un colpo d'ala, perché riesce a fare convivere due campioni come Roberto Baggio e Pirlo. Porta Pirlo più indietro in una posizione che poi manterrà nel Milan, nella Juve e nella Nazionale. Ho avuto la fortuna di essere un suo giocatore, è stato il primo a farmi giocare in questa posizione, mi ha voluto parlare prima di portarmi a Brescia per 6 mesi, mi ha detto che per lui ero un centrocampista centrale alla Falcao, che voleva che giocassi più dietro con Baggio davanti, quindi da lì è nato tutto. Era una cosa che mi piaceva, anche perché quando giocavo un po' più avanti negli anni precedenti mi piaceva sempre andare indietro a prendere la palla, quindi forse quello era il mio ruolo naturale che lui aveva già visto. Ma l'episodio più famoso del periodo di Carlo Mazzone a Brescia risale al campionato 2001-2002. Siamo all'inizio del campionato, 30 settembre, c'è il derby Brescia-Atalanta, non corre buon sangue tra le tifoserie di Brescia e Atalanta. Pensate che a Bergamo fischiano Balotelli in quanto bresciano, non in quanto nero. Sono due tifoserie molto toste. Alla fine del primo tempo la partita sembra chiusa, 3-1 per l'Atalanta, e la curva si scaglia contro Mazzone, la curva atalantina insulta lui, la sua famiglia, la sua romanità. Qui viene fuori il carattere di Mazzone. Il falco e il gabbiano. Rispondevo e nel frattempo lui fa il secondo gol. Allora ho capito che si era aperta la partita, allora dico ai tifosi dell'Atalanta, mi stavano offendendo, mo se famo il terzo gol 3-3 vengo sotto la curva. Baggio alla rincorsa, giù il cross morbido in mezzo, deviazione, il eh sì, sì, è una delle corse più famose della storia del calcio italiano. Non è una corsa di un giocatore, è la corsa di Mazzone, che peraltro alcuni giocatori diranno non lo vedevamo correre così da decenni. Fa una corsa perdifiato verso la curva dell'Atalanta, grida tutta la sua rabbia, è un gesto contrario forse a ogni tipo di fair play, ma intanto non stiamo parlando di un allenatore qualunque. E poi alla fine forse anche un sorriso può stemperare certi atteggiamenti violenti, e lui non ha paura di manifestare le sue emozioni, e anche ai microfoni di Sky a fine partita non va per chiedere scusa. Allora, quello che è successo che sul 3-1 ci sono stati dei cori razzisti contro la mia città di Roma, la città romana, e contro il ricordo dei miei genitori, che purtroppo per loro non ci sono stati, e gli ho promesso sul 3-1 che sarei andato sotto la curva. Ecco, questo l'abbiamo detto, lei aveva detto che sarebbe andato e dopo alla fine la piccola rivincita. Sono stato di parola, sono andato a salutare la curva, ho sbagliato la curva, però sono andato sotto quelli dell'Atalanta e gli ho detto tutto, adesso Collina faccia quello che è giusto faccia, mi interessa poco. Perché non si può sempre accettare tutto, è sempre la solita storia, bisogna avere comprensione, cose. Non sfido nessuno, però voglio rispetto, e rispetto chi mi dà rispetto. Poi arriva la squalifica, 5 turni, che mette fine così al contenzioso tra la curva, tra un'intera curva e un uomo solo. Mazzone non ha paura di dimostrare l'orgoglio delle sue origini romane, chiede rispetto. Questo rimane per molti il suo più grande colpo d'ala. Per drammatizzare dico sempre che io ho un fratello gemello che arriva a mezzogiorno della domenica e prende il posto mio e mi dice: tu giovanotto adesso hai fatto quello che dovevi fare durante la settimana, adesso in panchina ce vado io, perché io ho un altro carattere, un altro spirito, un'altra carica. E io gli lascio il posto, e lui ogni tanto mi fa casini questi, però è uno grosso, me l'ha fatto andando sotto la curva. E io gli ho detto dopo la partita: ma chi ti ha detto di andare sotto la curva? La risposta di questo fratello gemello, che c'è ma non esiste, è stata quella di dirmi: non ce la facevo più. In quel piccolo gioiello di provincia che è il Brescia della gestione Mazzone dal 2000 al 2003, nella rosa c'è anche un giocatore spagnolo che più volte ha dichiarato di conservare un grande ricordo di Mazzone e del suo Brescia, che in diverse occasioni ha avuto parole di ringraziamento anche per gli insegnamenti ricevuti da Carlo Mazzone. Quel giocatore spagnolo si chiama Pep Guardiola, che è diventato uno dei più grandi e strapagati allenatori di tutto il mondo. Gli ultimi anni della carriera d'allenatore Mazzone li trascorre a Bologna, a Livorno, arriva al record di 795 presenze in Serie A, numeri impressionanti in una carriera che si ferma a 70 anni quando Carletto ha deciso di andarsene in pensione. È tornato a Ascoli, la città che gli è rimasta nel cuore, e da lì guarda il calcio moderno anche con un occhio critico, perché lo sa anche lui che allenatori come lui, giocatori come lui non esistono più. Certo, magari vederlo su una panchina della nazionale sarebbe stato esagerato, ma se fosse mai accaduto probabilmente sarebbe stato l'unico in grado di far giocare assieme anche gente come Baggio, Totti e magari anche Del Piero. Sentite in questa intervista come avrebbe risolto il problema. Io c'ho una battuta su questo, le volte mi facevano questa domanda dei due, no? E io rispondevo così, per non fare una classifica, no? Sì. Che vuoi mangiare, i fagioli o la salsiccia? Come sono buone le salsicce che i fagioli? Una vita piena di colpi d'ala, anche di manifestazioni sanguigne del suo essere un allenatore diverso, burbero, paternalistico, molto spettacolare. E noi vi aspettiamo con altre storie, vi chiediamo di segnalare via mail al Falco il Gabbiano radio24.it se anche voi conoscete una storia che merita di essere raccontata. Seguitemi, interagite sul sito di Radio 24, sui nostri social Facebook, Instagram, Twitter, e insomma se mi cercate mi trovate. Ciao, a domani. Il Falco e il Gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri, testo di Dodo Pipinti, produzione a cura di Luigi Speciale e Chiara Compagnoni.